È la sesta edizione di Leggo per Legittima Difesa, dal 12 al 22 di ottobre, e ne parliamo proprio con Daniele Miglio, che dovrebbe essere in linea. Ci sei, Daniele? Ah, sì, ci sto. Ciao Vele, come stai? Bene, ma lo vuoi dire te, quant'è che non ci sentiamo? Ma guarda, è l'ultima volta che ci siamo sentiti, a parte un minuto fa, l'ultima volta che ci siamo sentiti era forse nel 2016. Beh, neanche tantissimo, però insomma mi mancavi tanto. Sì, anche tu, come stai? Tutto bene? Tutto bene, senti, tra l'altro su queste, a Radio Teatro, è la prima volta che parliamo di Leggo per Legittima Difesa e mi pare scandaloso, però tant'è. Come la prima volta? Non mi dici? Mi sa proprio di sì. La sesta edizione non ci abbiamo, ma guarda che sei sicuro? Non so sicuro. Non sei sicuro? Però non mi pare tanto di sì, guarda. Allora, raccontiamolo un po'. Intanto raccontiamo che cos'è in generale. Esatto, partiamo proprio dagli inizi. Guarda, parlo io, io già mi impappino a parlare normalmente, figurati per radio, però ci proverò. Ci sei? Sì, sì. Ci abbiamo una mezz'oretta, no? No, scherzo. Allora praticamente Leggo per Legittima Difesa. Leggo è, diciamo, un luogo, no? Un luogo, sì. Non luogo, perché in realtà poi i luoghi sono diversi, dove ci si incontra, dove si parla di libri, dove ci sono spettacoli teatrali, dove quest'anno ci saranno proiezioni di film, so che tu sei un appassionato di cinema, certo. Documentari, letture dei libri, reading, se leggere al bello, insomma è un luogo dove succedono un po' di cose, sì. Dove succedono un po' di cose gratuitamente e dove succedono un po' di cose nella periferia romana. Perché tutto questo festival nasce, no, dal Quadraro, sì. Perché nasce lì a Via Libera, dove è la sede del Quadraro, e poi si allarga per la città. L'altro anno siamo stati a Scoop, quest'anno saremo anche a un'altra periferia storica romana, che è quella del Quarticciolo, saremo anche a San Lorenzo, saremo all'Amaro. Insomma, è un festival che si muove un po' per tutta Roma, per tutte le periferie. Allora, i giorni sono dal 12 al 22, tutti i giorni? Sì, sì, no, aspetta, non ti dico. Okay. Allora, faremo il 12 e il 13 alla libreria Giufà. Yes. Che sta proprio lì a San Lorenzo. Dove ci saranno aiutami a dire, graphic novel? L'hai detto benissimo. Ah, graphic novel, dove ci saranno presentazioni del libro di Ida Amlesu, che io tutti i nomi particolari qua, che leggerà Patrizia Ciabatta. Insomma, ci saranno un sacco di cose il giovedì e il venerdì 12 e 13 a Giufà, libreria, caffè, dalle 18:30 diciamo alle 21, okay, 21:30. Okay. Poi ci spostiamo al Quarticciolo. Al Quarticciolo abbiamo lo spettacolo di sabato di Gioia Salvatori, non so se la conosci. Gioia Salvatori è stata qui a Radio Teatro in diverse occasioni. Ah, perfetto, molto brava, ma non ti chiedo, però è molto brava. È molto brava. Con Cuoro in pillole lo spettacolo, con la regia di Giuseppe Roselli, e anche questo gratuito, eh? Noi voi venite qui alla Brida Quarticciolo, dice, quant'è? Niente, entrate gratis e vedete lo spettacolo. Poi questo, che saremo al Quarticciolo venerdì, sabato, giovedì, aspetta, sono piccolo, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Ok. Poi un altro posto dove facciamo il festival all'Accademia dell'Antimafia qui all'Amaro, che è una scuola dove abbiamo una sala molto bella, e lì ci starò pure io il 22, penso. Con cosa? Farò delle letture da un libro che si intitola Tutti i romani, tutti i romanisti, di Andrea Gardoni, ma in realtà si parla dei tifosi, ma parla dei tifosi in genere, perché è una serie di interviste ai tifosi molto divertente. E poi leggerò i belli, alle 5. Ma quel giorno ci sarà pure, non so se hai visto quel documentario sul calcio, non so se ti appassiona al calcio, però un documentario, sì, molto bello, 0-0 si intitola. Come no? Sì, sì. Paolo Geremei. Ho pure avuto ospite Paolo alla trasmissione quella mia di cinema. Ma a te non ti sfugge niente, però. Veramente, veramente, veramente. Non ci sono segreti. Ci sarà, poi, ci saranno pure quelli della Liberi Nantes, che è la squadra di rifugiati. Sì. Dialogheremo un po' su questo, no? Il calcio come sogno infranto, il tema affrontato da 0-0, il calcio come riscatto sociale, quello che la squadra dei rifugiati. Questo succederà domenica 22 all'Accademia dell'Antimafia. Okay. E poi la sera sta a Creative Football, che è un altro. Anche quello, sì, conosciamo anche quello. Comunque sì. C'è un programma, basta che si va su Facebook. Ma che se è troppo lungo, sono noioso? No, sei avvincente. Comunque basta andare su Facebook, la pagina, cliccare Leggo per l'ultima difesa, e c'è tutto il programma se qualcuno è interessato, insomma, dal 12 al 22. Benissimo. Ci sono vari giorni. Ci sono anche per i bambini, specifica per i bambini. Okay. Anche lì a San Lorenzo e alle librerie a Guasticciolo. Il 14, il 21 e il 21 ottobre. Daniele, mi sa che vi vengo pure a trovare in tutto questo. Quando vieni? Non lo so, adesso ragiono su cosa vedere. Guarda il programma di preciso e poi mi ricordo. Perfetto. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie. E a presto qui, perché tu manchi invece da questi microfoni, potresti portare qualcosa di nuovo. Da lì da tanto, da lì delle veste di qualche anno fa. Porca miseria. Sì. Va bene, dai. Allora, pensa pure tu a questa cosa, allora. Bene, grazie Fede. Un abbraccio, ciao. Vai, ciao.